Allora, mio fai che lì per chi? Diavolo custode, che è la storia del bandito Sante Pollastro. È la storia del bandito Sante Pollastro. Quel che De Gregori la canta la canzone Sante Pollastro, il bandito è il campione. E niente, è un libro che mi dai di soddisfazione. È un bel libro. Se vuoi dire, presenta il libro. No. Dai, leggi qualcosa o devi due robe? Leggi qualcosa. No, è nascito lo in memoria. È un libro che va in tutta Italia, per dire. No, la distribuzione è nazionale. Vabbè. In memoria di Osvaldo Scarioni, un biegrassino. Bravo! Grande Scarioni! Non so se gli altri lo conoscevi. Tanto in più mi ha telefonato suo figlio. Lei è un bel libro. Il libro che ho presentato alla Calusca da Robertino. E legge un qualcosa. E parla anche un po'. Che ha anche un riferimento a Biegras, nel senso che al Sante Pollastro, quando è scappato di Milano per andare poi a rifugiarsi in Francia, le passate di Biegras, cioè la soggiornà alla in via Duchighera. Come si chiama quella lì della vicino alla PH, insomma, via San Martino. Ma no, tu che era tutti ladri, tutti assassini, no? Oh, un 70 anni fa. Ma ricordi no, gul cazzo, sembra che sei anche a te. Una volta che ti ha aiutato, ti ha aiutato no. No, il dove adesso fai al pub, su da fa. Oh, ma si tre dei touch tranne che quella lì. Santa Maria. Ecco, bravo. Santa Maria. Adesso che ti dica bene. Una volta lì era un po' una casba prima della guerra. Sì, prima della guerra sì. E infatti l'ho dato Caglioni e l'aveva su lì. Comunque arriva lì. E mio fai che liberchi. Sembra che stia andando anche bene, insomma. Ma sì. Però va bene. Il mio tentativo è stato quello di scrivere una storia riconoscibile in questi luoghi, insomma. Lui era di Novi Ligure, però ha sempre operato anche a Milano. E poi è stato il più grande bandito della storia del nostro paese, insomma. Adesso nessuno più lo conosce, però vabbè, Sante Pollastro è stato anche in Francia era molto conosciuto, era stato tra l'altro Le Figaro aveva scritto che era il nemico pubblico numero uno, poi è stato arrestato in Francia nel 27 ed è morto, poi ha scontato i suoi anni di galera, poi le stai graziando da Presidente della Repubblica e poi è morta a Novi Ligure del 79-80. Questa è la sua storia, chiaramente romanzata. Ma mica più niente di mi sono strazio. Cioè, mi urli giù con la roba che ti ha massuta di qui. Robertino, vieni a chi? Parla a chi? C'è la Calusca. Su stuf, cazzo. Cioè, su stra. Su stra. L'ha incontrato? Ci ha lavorato tutto il dì su stra. Lei l'ha incontrato? Sì, mi lo incontrava prima che moriva, nel 79. Era morto nel 79. Vabbè, ma Sante Pollastro. No. Ma che cazzo va a mostrare? Cioè, nessuno lo sa. Chi è? Sante Pollastro è un mito della. No? È la prima volta che lo sento. Una biegrassina. Vabbè, ma se che vedi, ma è una notte biegrassa, però. Per lei è giovine, no? Che avrà 50 anni. Chi è giovane? Lei è la sciura. Io? Sì. No. Vaticanà. Vado avanti. 70. Chi sa parla di una storia del 90 anni fa? 80. No, comunque la storia di Sante Pollastro è del 1820, le stai restando nel 27, lui. Quindi i nostri nonni se la ricordano, suo papà sicuramente se la ricordava, ma noi non se la ricordo più, come il disco e tutti i rossi erano dismettegati. Davvero scrivi roba, e allora ti conserva la memoria, ma dato che il paese chiga né memoria né verità, sei costretta a dismettegare il disco, insomma, no? Lì il problema fondamentale. Cioè, vicino alla storia ufficiale esiste anche un'altra storia. che allenò con un Sud, se con mio no. Sempre. E quindi la bisognerebbe davvero scoprire la vita della gente, insomma. Questa che il Lugo aveva una vita eccezionale sicuramente, per i rock che la fai. È stato il più grande, appunto, bandito di tutti i tempi, in Italia almeno, ma anche in Francia l'è abbastanza conosciuto. Poi vabbè, lui ha avuto tutta una storia particolare, quindi mille, no che vi rifarò riferimenti ideologici, però sicuramente la mia simpatia l'ha battuta il personaggio, insomma.